c'è la bomba e sta funzionando sempre bene. Ah, io ne avevo uno che stavo usando fino a poco tempo fa, che mi ha regalato Claudio, quello da 30 ampere, e funziona benissimo ancora oggi. Sì, no, già vanno bene, che se ti capita l'alimentatore, diciamo, sbagliato, perché li metti vicini, sono identici, capito? Però c'è quel modello che dà quel problema lì, che ti fa rientro, ti dà un sacco di QRM, allora niente, adesso so dove comprarlo, capito? L'ho pagato questo da 50 ampere, mi sembra l'ho pagato 22. Non mi pare che neanche i cinesi ce l'hanno così, 24, 25, mi sembra, l'avevo visto, una cosa del genere. Però già vanno bene, dai, che poi lo devi un po' modificare tu, perché è un po' crudo, là, come alimentatore. Lo devi mettere il pulsantino, devi mettere due bananine dietro, se no c'ha tutto il camorsettiere tutta davanti, devi farle il cavo dall'alimentazione, tutte queste cosettine le devi fare tu. Ah, allora, quello, ma se mi pongo lo posso accendere la stampante e me lo posso in corso, in PLA, me lo posso, con tutti i buchi predisposti per le bananine, per il pulsante di accensione. Ma intanto è sotto i gips, che cosa fa? Non mi interessa. Cappa, cappa, avanti, tra. Aspettate un secondo, mi sei trovato la televisione, non riesco a comprare di pagoggia, riprendilo. Che sto facendo questa domanda a suo comune. Cappa, cappa, riprendete, c'era Gianni, No, non va benissimo, Gianni è andato a farsi la bui in quello di Bossama. Ah, vero. Luca sta cucinando, Claudio si aspetta la televisione, due giorni BC, allora tutto tutto, mi andando a cucinarmi un brodino. Di Dado? No, di Garri. No, non c'è segnale da nessuna parte, capito? No, pensavo fosse la televisione, invece deve essere un problema di non farà un ripetitore. Ehi, adesso qua che io a fine di questo mese finisco il contratto con la Tremi, ne so che tutto quanto andrebbe. Con il cellulare è un casino, quando sono qui su problemi non ce ne sono, ma quando sono al piano di giù per parlare mi devo mettere vicino, devo stare vicino alla porta perché non c'è segnale e mi innando, avvi la cosa. Poi lascia perdere. Guarda, mia figlia gli ho fatto, l'ho passata a Tim, Daniela lo stesso è Tim, giù, su, non hanno problemi da nessuna parte. Paga 6,99 euro. C'ha tutto limitato e 50 giga la voglia. E con che cosa? Con l'IAD? No, con Tim. L'IAD prima c'era, l'IAD nella sbucata, perché quando parlavi cadeva la linea lì. No, io c'ho Tim, ma si vede. Tim funziona sempre perfettamente, non c'è problema. No, ma non capisco perché in tutte le stanze non c'è segnale TV, nulla, Rai, tutto. Neanche. Allora è un problema. Vabbè, non si vede nulla. Ma anche negli altri canali lo fa la televisione, non solo la Rai. No, tutto il palazzo. E allora che è un problema? Usci all'improvviso, se non si farà dare fumo la centralina. Il partitore. Non so, ragazzi, me ne scendo giù, anche se la vai, no, che peso 24 gradi con un carro allucinante, me ne scendo giù e facciamo qualcosa. Là. Ci aggiorniamo via Motozappa, ci sentiamo, là. Ciao Claudio, Luca e tutti quelli che stanno ascoltando, là. Ciao. Ciao, Marcellia, lascia il tuo così che stia andando una cannonata. E io ti aggiorno su WhatsApp, dai. Anche io mi allontano, vediamo risolvere questo problema. Salire su in mansarda se è saltata la centralina. Ok, ci sentiamo dopo, ciao. bombolo, cambio. Attenzione, binario 10, binario 10, copiati Antonio Bombolo che fa chiamata, cambio. Hola, 1, 2, 3, prova. Chi è? Ciao, questa modulazione è tutta strana. Cassino, non ho capito. Sei fuori frequenza, sei tu. Io ti sento tutto wa. Prova, mettilo una linea, un altro po', l'apparecchio. Sì, siamo in AM, siamo. Guarda, ma non è che con l'apparecchio c'è il califer per caso. Allora giralo un po'. Cappa, dai, io sto cominciando a sentirti bene, sto cominciando. Ma che zona moduli? Zona via Maddalena. Cappa. Prova a girare, cioè, perché sei appena fuori frequenza, cavolo. Se riusciamo a metterlo in frequenza, perché non ce l'ho con l'affare? Se riusciamo a mettere l'apparecchio in frequenza, ci sentiamo una meraviglia. Sarà un portatile, cioè. Con uno della zona, però non riesco a capire, cioè lo sento male ed è fuori frequenza. Io, lineare attaccato, ma stai scherzando o cosa? C'è spento il lineare. E come mai c'è il shuttle? E che ne so, Google? Cazzo! Ma sta scherzando che ho il lineare attaccato? È un webcam la voce, non è quella squillante che ti ascolto sempre, boh? Non lo so, no, Clau. Non lo so perché, boh. Vabbè, questo qua è quell'Intec. Aspetta che provo a cambiare apparecchio se non va bene, un attimino. No, ti sento, però non è quella voce squillante che ti ascolto sempre, capito? Ma va bene lo stesso. Lo so, Cla, però, boh. No. Non lo so. Non so perché. No, vabbè, questa qua è una radio normale, non è che sia chissà cosa. Lo vedi. Ah, va, attaccato lo lineare. Ma prima era sudato. Ti porto via un po' di radio. Ma quanto lo tiri di tanto il microfono? Attaccalo più alla bocca. Se l'ho attaccata alla bocca, ce l'ho. Boh, che strana la modulazione. Che è la più bella l'altro giorno, non so se stai reggendo questa. Non lo so. Boh, non lo so, no. Aspetta che attacco il 550. E questo qua lo spengo. Prova, poi passaggi un po' vaccinare. Hola, chicos! Questa meglio va. Non riesco a comprendere, non te la dico. Tu immaginati che con questo stai arrivando. Ma lo stesso segnale quando attacchi. Davvero? Vabbè, quella là c'ho 4 watt, la uso così. Ma l'ho sempre usata, non mi hanno detto mai niente. Vabbè. Fatenila un po' più alla, come dite, per tenerla un pochettino più tranquilla questa radio, capito? Per usare anche le altre. Però ce n'ho anche un'altra che funziona, sicuramente funziona meglio di quella. No, questa funziona bene, questa funziona benissimo, meglio dell'altra, ma molto molto meglio, e manca paragone. Lo so, ma ne ho un'altra che funziona più bene, ne ho anche. C'ho l'altra, la Fayette c'ho. La Fayette va bene come tipo di radio, va benissimo. Guarda, te la faccio sentire 2 secondi. Non vedi poco fa col portatile che non ti sentivo? Vedi, questo è l'Alfa Jet. Questo penso che vada abbastanza bene. Ah, grande. Ora che non vedi col portatile poco fa che non ti sentivo? Ho scoperto che cosa erano. Vai a comprare batterie di marca e fatene più cagati di quelle che ho comprato da Eurospin, sono migliori. Quindi sei rimasto praticamente senza alimentazione, per quello non ti sentivo. Allora, cioè, ma carità, li ho misurate con quel tesserino che ho per le batterie e ho scoperto che praticamente erano le batterie che non, cazzo, arrivavano un po' trusi su da lavaburo, attinnante. Aspettami, guarda. Guarda bene con questo. Con questo qua va meglio, vero? Con questo la cannuletta un po', ti aumenta anche la radio, non te la porta via, te la aumenta ancora di più. Ma perché non ne usi una, cazzo? Boh. Questa è la migliore in assoluto. Perché voglio usare anche quella lì un pochettino così, sai. Questo è l'Alfa Yeti col ZG. Questa va bene, questa ti aumenta anche la radio, lo sai. Ti porta su anche l'amplificazione. È molto, va molto meglio questa. Vero? Gabba. Ma sai cosa sono riuscito a scoprire io? E questi cavoli di ZG, secondo me non è tanto canto originale, è che vivo su cianza a alimentarli, perché se tu li alimenti bene con l'alimentatore giusto ti danno tutti i watt. L'ho scoperto, me l'ha fatto notare una persona, me l'ha fatto notare. Se tu gli dai veramente gli amperi che ci vogliono, facciano che escine. Ma questo è bene, cioè, se tu chiedi a chiunque, fai tre passaggi, questa con l'iniera attaccato, hai lo stesso segnale dell'altro quando attacchi, uguale preciso, ma la radio non te la porta via, anzi te la aumenta, è ancora più bella, capito? Quando non pensi a te non tratti di capire? Lo so, Bafalandà, Buruguida, eccetera, eccetera, lo so. Questo è sempre Guido che mi ha dato dume. Vabbè, tieni questo come prima radio e poi gli altri li usi ogni tanto per farli andare, però questa è la migliore in assoluto. Segnale 9+20, radio super 5, molto molto forte la radio, più forte di tutte. Se cappa, già lo so già, è una cannonata quel ZG, me l'ho sempre tenuto, me lo. E poi ho notato che si dà l'alimentazione, gli su, anda, non ce n'è più per nessuno. Perché questi vignetti così trasipolizzati, voi li alimentate a parte, se tu li alimenti con lo stesso alimentatore, sto alimentando anche i baracchini, capite? Io per esempio ho un alimentatore da 50 ampere, il 55-60 della Proxer, che mi alimenta tutti i baracchini, ok? Perché c'è un sacco di ampere, poi per gli HF io uso quello della Diamond da 60 ampere, capite? Io ho alimentatori buoni. E questo della Diamond costa una barca di soldi, non la fa Gianfranco, anche se ha un problemino, perché per farla accendere devi stare 2, 3, 4, 5 volte, c'è qualche condensatore in credito, però una volta che accende è una cannonata, capito? E poi per alimentare, per esempio, o l'RMI Italy o il B300, quelli transistorizzati, o un altro alimentatore ancora da 40 ampere da solo, alimentare quelli, capito? In modo che non facciano contratto con l'alimentazione della radio. Se cappa, sì, comunque a me me l'ha fatto notare una persona da poco, e mi ha mandato il video, l'ha provato con un bello, quello è il B300 della ZG, l'ha provato con un alimentatore che spinge veramente, l'ha provato. Ha già cantolizzazia in certa marcia, cioè perché quelli lì non è che ti diano chissà cosa, 180 watt, metteva quello della Proxel e te ne dava 160, perché questi cavoli di cosi ho scoperto, che vivo un po' di sostanza a Bafalandà, se no funzionano di bene. Ma 180 è scarso in certa marcia, io ho il B300P. Ok, in certa marcia me ne va 230-240 in AM, capito? 220, dipende, ma è perfetto, quelli sono i watt che devo dare, infatti io lo tengo sempre in terza marcia e mi dà intorno ai 150 watt. Cioè ha fatto la differenza, ha fatto. Ha poi uno uno della Brox da 25 ampere e non gli dava tutta quella potenza come gli dava con l'altro, quello massiccio, che mi pareva più di 30 ampere. Quello gli ridava tutti seriamente, gli ridava la potenza. Pari gusti, ma c'è molta differenza. Sì, ma infatti per la radio, per gli applicatori trasferitati ci vogliono rimettere buoni. Non ci vogliono rimettere quelli piccoli. Io i due rimettatori ho 120 ampere, due, più l'altro, la mia 40 sono 160 ampere, capito? Va bene, dai, Antonio, che vado a mangiare. Sì, sì, sì, ci sentiamo dopo. Ok, ciao, buona cena, buon tutto, a dopo. Ciao, ciao, Cla, ci sentiamo. Care, care, qua non riesco a capirti. Sì, non sei centrato di banda.